le donne appunto per lo più oggi i loro flussi migratori vengono gestiti attraverso viaggi via terra, passando di solito per il Niger e poi per la Libia, quindi si tratta di viaggi molto pericolosi in cui spesso lo sfruttamento della prostituzione e la violenza ad esso connessa iniziano già durante il tragitto, per esempio ad Agadez in Niger, che è uno degli hub appunto dei flussi migratori che partono dall'Africa occidentale verso l'Europa, e poi in Libia si sono sviluppate quelle che vengono definite le connection house, che sono i luoghi dove le donne nigeriane vengono trattenute, diciamo, fino al momento in cui poi potranno intraprendere il viaggio via mare per raggiungere le coste italiane. Non sono fenomeni del tutto recenti, nel senso che già nei primi anni 2000 e in parte anche negli anni 90 alcune donne intraprendevano questo tipo di viaggio per arrivare in Italia, ma al momento sembra che questo tipo di organizzazione sia molto più diffusa, per l'appunto perché i viaggi per via aerea sono sostanzialmente cessati. Questo significa anche che mentre nel periodo precedente il debito appunto raggiungeva delle cifre fino ad 80-100 mila euro, al momento il costo del viaggio si è ridotto, però rimaniamo comunque su cifre intorno ai 30 mila euro. Questo perché appunto un viaggio via terra ha dei costi minori dal punto di vista dello sponsor e ha dei costi e dei rischi maggiori per la persona che lo intraprende. Questo, d'altra parte, si verifica parallelamente anche alla caduta dei prezzi delle prestazioni fornite dalle prostitute di strada, perché, nonostante il prezzo pagato alle donne nigeriane per una prestazione sia sempre stato il più basso sul mercato, non solo perché è prostituzione di strada, ma anche perché, appunto c'è una gerarchia fondata sul colore rispetto ai prezzi corrisposti alle lavoratrici del sesso, per cui le donne nere, diciamo, sono quelle che valgono di meno. Fino a qualche anno fa una prestazione poteva essere pagata 20-25 euro, se non di più, al momento in strada si parla di prezzi che possono essere anche 10-15 euro, per non parlare poi delle situazioni come quella dei ghetti e delle baraccopoli varie che costellano l'Italia, in cui il prezzo di una prestazione può essere anche di soli 5 euro. E ovviamente, appunto, la crisi economica e la progressiva criminalizzazione da una parte dell'immigrazione e dall'altra della prostituzione stessa hanno fatto sì che l'esercizio di questo tipo di attività sia diventato sempre più pericoloso e difficile per chi lo esercita. D'altra parte, insomma, intanto chiariamo che ovviamente il debito è composto dal rimborso delle spese sostenute dagli sponsor per far arrivare le donne in Italia o altrove in Europa, ma ha dei tassi di interesse ovviamente altissimi, che includono anche il costo del vitto e dell'alloggio e il costo diciamo, dell'attività stessa, cioè per prostituirsi una donna paga vitto al mese o alla settimana per il cosiddetto joint, che è il luogo fisico in cui esercita la prostituzione o comunque in cui adesca i clienti. Sì. la criminalizzazione della prostituzione è ovviamente, diciamo, si articola attraverso ordinanze comunali e simili, non è qualche cosa che viene sancito dai codici penali, perché la prostituzione non costituisce ovviamente reato in Italia, ma di fatto appunto viene criminalizzata e marginalizzata attraverso ricorso a appunto ordinanze per il decoro o per diciamo la circolazione del traffico e cose di questo tipo. Un altro dettaglio forse interessante è che i titolari del debito possono essere molteplici e in qualche caso il debito passa da uno sfruttatore, da uno sponsor ad un altro. Si sente spesso dire che la tratta è in mano alle mafie nigeriane. Questo, diciamo, è vero nel senso che esistono delle reti di contatti che appunto controllano attività come il traffico della droga, oltre che alla prostituzione, ma si tratta comunque di reti molto mobili e flessibili e appunto la titolare del debito è spesso una donna, è stata con una storia di prostituzione che poi nel tempo ha ripagato il suo debito e quindi inizia ad adescare persone in Nigeria per sfruttarne il lavoro. È vero anche che non tutte le donne che contraggono un debito poi finiscono a prostituirsi, ma va considerato ovviamente che per una donna africana senza istruzione formale o comunque con un basso livello di istruzione, spesso quasi analfabeta, come molte donne, soprattutto le donne poi appunto hanno un accesso ridotto alla scolarizzazione, ovviamente la prostituzione diventa l'unico spesso o uno dei pochi una delle poche fonti di reddito possibili in questo momento, però appunto poi i rapporti tra le donne e le madame sono diversi e non tutti totalmente coercitivi. Anche qui c'è una grande varietà di relazioni. In molti casi le donne subiscono pressioni molto forti, non soltanto in conseguenza del giugiù, ma subiscono minacce e violenze fisiche che spesso coinvolgono anche i loro familiari in Nigeria. Ci sono diversi casi di persone che sono state uccise, muoiono moltissime donne nigeriane ogni anno, decine di donne nigeriane in Italia per mano sia dei loro sfruttatori che ovviamente anche dei clienti e la violenza subita viene inflitta anche dalle forze dell'ordine. Molto spesso c'è un ricatto che le donne subiscono da parte delle forze dell'ordine, per cui sono costrette a fornire prestazioni sessuali gratuite e questo non soltanto perché nella maggior parte dei casi sono prive di documenti, ma anche perché molte di loro pensano che la prostituzione sia illegale. Questo anche perché in Nigeria effettivamente la prostituzione lo è, insomma, è criminalizzata, come diciamo criminalizzata la povertà in generale. Infatti, appunto, poi per tornare un po' al contesto nigeriano in cui si è sviluppata la tratta, ovviamente la tratta può essere considerata come una forma di truffa in qualche modo, cioè molte donne raccontano di essere state ingannate rispetto all'entità del loro debito o all'entità del lavoro che avrebbero dovuto svolgere una volta in Europa per ripagare il debito. Anche qui vanno fatte molte distinzioni, anche perché si tratta appunto di un fenomeno che va avanti da diverse decine d'anni e che coinvolge un numero molto alto di donne. È impossibile ovviamente fare delle stime, però insomma è verosimile pensare che in un dato momento ci siano nelle strade d'Italia almeno 8.000 donne nigeriane che esercitano la prostituzione, di cui una grande parte sottoposte appunto a un debito. E c'è ovviamente anche un forte turnover e molta mobilità, per cui le donne si spostano spesso anche magari tra diversi paesi europei. L'Italia è sicuramente il primo paese storicamente di destinazione di questo flusso migratorio specifico, ma poi la tratta si è allargata a molti altri paesi europei, in particolare la Spagna, l'Austria, la Germania, la Norvegia, ma anche l'Inghilterra, la Francia, insomma quasi tutta l'Europa e non solo, anche i paesi del Golfo, per esempio, anche se i punti di origine poi sono in parte anche diversi, cioè non sempre. Appunto, la tratta extraeuropea ha origine a ben siti, come invece è tuttora vero per chi arriva soprattutto in Italia. La questione, diciamo, molto spinosa del fatto che le donne sappiano meno quello che stanno venendo a fare, è qualcosa che a mio giudizio andrebbe capito, compreso ed analizzato meglio, perché anche da un punto di vista legale, diciamo, la definizione di quello che è la tratta non presuppone la coercizione o la mancanza di consenso di per sé, cioè il fatto di accettare di essere ridotti, diciamo, a una forma di quasi schiavitù non inficia il reato, cioè il reato di riduzione in schiavitù sussiste, sia che una persona diciamo, venga in qualche modo costretta a questa condizione, o che essa stessa accetti questo, cioè appunto come in generale il concetto di sfruttamento, no? Esiste lo sfruttamento sia che la persona, diciamo, acconsenta che no. L'applicazione delle leggi contro la tratta in Italia è molto selettiva, nel senso che presuppone appunto spesso che la persona sottoposta a questo tipo di sfruttamento sia stata in qualche modo ingannata o costretta con la forza. Questo è appunto un'interpretazione molto limitativa, come limitativa anche spesso giudicata a sporgere denuncia, nonostante la legge non preveda questo, ma appunto. Questo pone molti problemi proprio perché è difficile pensare che le donne che arrivano in Italia non siano parzialmente consapevoli del fatto che si dovranno prostituire per ripagare il debito, soprattutto appunto perché si tratta di un fenomeno che va avanti da 30 anni e più. E che quindi, insomma, non soltanto attraverso i racconti delle persone che ne hanno fatto esperienza diretta, ma anche attraverso le diverse campagne che sono state portate avanti negli anni da diverse coalizioni di ONG create dalle agenzie ONU, quando, diciamo, il discorso della tratta diventa preponderante nella macchina della cooperazione, cioè nei primi anni 2000. Si tratta ovviamente di campagne molto ambigue perché da una parte sono mirate allo scoraggiare le persone al sottoporsi a contratti di questo tipo, quindi sono mirate a scoraggiare lo sfruttamento, ma di sottofondo c'è sempre anche una criminalizzazione della prostituzione tout court e anche della migrazione tout court. Quindi diciamo, questo tipo di discorso, sia che venga dalle organizzazioni governative e non governative, che venga anche da persone che hanno esperienza diretta della migrazione, non viene spesso ben recepito perché viene percepito come una forma di, come dire, di egoismo, di un modo per impedire alle persone di fare fortuna e di arricchirsi come si sono arricchite altre che hanno fatto questa esperienza o che, diciamo, parlano da una posizione di privilegio come sono gli agenti governativi e non. E questo è vero ovviamente non soltanto per la questione della tratta, ma in generale per il fenomeno migratorio, cioè molte persone vedono nella migrazione la loro più grande opportunità e speranza di cambiamento in positivo e quindi non sono disposte, diciamo, abbandonare questo progetto di vita. È vero anche che poi molte donne nigeriane vengono rimpatriate, vengono deportate perché senza documenti, anche qui ovviamente in palese violazione delle disposizioni contro la tratta che prevedono una protezione per le cosiddette vittime, e però chi viene deportata in molti casi trova il modo di ritornare in Italia attraverso, in Europa, attraverso gli stessi canali, quindi ovviamente assolutamente consapevole sempre di più di quello che l'aspetta, mentre ovviamente va anche detto che una giovane donna che arriva da un villaggio, comunque da un quartiere povero di Benin City, ha pochi strumenti per poter effettivamente immaginarsi e comprendere realmente quello che l'aspetta, anche perché le donne in Nigeria, diciamo, hanno una agibilità sociale limitata, soprattutto le giovani donne, per cui anche in ragione del fatto che hanno un livello di istruzione molto basso e che comunque l'istruzione in Nigeria non fornisce grossi strumenti proprio perché è stata, diciamo, massacrata dalle riforme dei primi anni Ottanta, per cui ovviamente appunto anche la discriminazione delle donne in Nigeria gioca un ruolo nel renderle più vulnerabili a meccanismi di sfruttamento, ma nel momento in cui una donna rinegozia un debito dopo una deportazione ha degli strumenti in più per potersi gestire questa situazione, diciamo, a suo vantaggio, tra virgolette, nel senso avendo la possibilità magari di tenere da parte poco dei suoi guadagni per mandarlo a casa, per esempio, o non vivendo così a stretto contatto con una madame come può essere per chi è appena arrivata. Anche qui poi, appunto, per riprendere un discorso già fatto, alcune donne sono più controllate costrette, di altri in alcuni casi vengono loro sequestrati anche i passaporti, non possono avere i telefoni cellulari, eccetera, ma con una dinamica in costante cambiamento, perché più tempo una persona, una donna passa in Italia, più riesce, come dire, a costruirsi una sfera di indipendenza, per quanto ovviamente molto limitata. E quindi sì, per ritornare ai rapporti tra l'Italia e la Nigeria, dicevamo prima che negli anni Ottanta si sviluppa un traffico di rifiuti tossici provenienti dall'Italia verso la Nigeria, un traffico che è tuttora assolutamente fiorente. Così, scorrendo brevemente le notizie, è assolutamente evidente come sia una pratica assodata, ovviamente che non riguarda soltanto la Nigeria, ma diversi paesi africani, e non riguarda nemmeno soltanto l'Italia. Poi, diciamo, alcune organizzazioni, alcuni cartelli, diciamo, hanno in appalto la gestione e il trattamento dei rifiuti tossici che provengono da diversi paesi europei. Quindi, casomai, diciamo, l'Italia ha questa posizione di cosiddetto privilegio nel trattare questo tipo di economie illecite, così come il traffico della droga, ovviamente. In generale, sì, i rapporti tra l'Italia e la Nigeria credo si possano analizzare, cioè, a partire da quello che succede negli anni Ottanta, quando appunto poi l'imprenditoria italiana sbarca in maniera più preponderante proprio in Nigeria, attraverso diversi tipi di business, cioè sia la costruzione di infrastrutture, appunto attraverso società come Impregilo, per esempio, ma non solo ovviamente, e anche dell'industria del legno pregiato, per esempio. Cioè, ci sono molte aziende che si occupano di questo, dell'import-export di diversi tipi di prodotti, anche l'agroalimentare, cioè il concentrato di pomodoro piuttosto che la pasta, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono grossi interessi italiani in Nigeria, ecco, e questo sicuramente, diciamo, ha anche prodotto, creato dei canali di contatto attraverso i quali poi si è sviluppata la migrazione, quindi anche la tratta, cioè a partire appunto dal traffico della droga, ma anche semplicemente nei contatti tra gli imprenditori italiani e i lavoratori e le lavoratrici locali.